Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. È partito lunedì da Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italiana, il roadshow di presentazione della più grande IPO in Europa da quando la crisi ha messo sotto sopra i mercati mondiali da metà 2007. Ed è quella di una grande società italiana, Enel Green Power. IPO sta per Initial Power Offering e vuol dire che si stanno sostanzialmente raccogliendo le prenotazioni e le adesioni di lotti di azioni di Enel Green Power, che è la multinazionale verde del gruppo Enel, un gruppo che vale 10 miliardi. Il collocamento riguarda circa il 30% del capitale. Allora noi stamattina, anche su precisa sollecitazione di molti ascoltatori, cercheremo di spiegarvi intanto qual è l'attività di questa azienda, come funziona questo collocamento, che tipo di opportunità darà anche ai futuri azionisti. 800240024 il numero verde per le vostre domande. Non possiamo perdere tempo perché ci ha concesso appena 10 minuti del suo tempo preziosissimo in questi giorni in giro per il mondo. Luca Torchi è responsabile Investor Relations di Enel. Buongiorno Torchi, benvenuto. Buongiorno a lei. Mi sente? Buongiorno a tutti. È a Parigi oggi? Oggi sì, siamo a Parigi. Abbiamo iniziato una lunga serie di roadshow. È cominciata a Milano lunedì pomeriggio dopo aver fatto la presentazione a Palazzo Mezzanotte, ieri a Londra, oggi il presidente di Enel Green Power con me, Luigi Ferraris, è a Parigi e c'è un altro team guidato dall'amministratore delegato Starace che si trova a Edimburgo e a Londra. Quindi seguiremo nei prossimi giorni per l'Europa, la prossima settimana gli Stati Uniti. Vi siete dovuti anche dividere per seguire un po' tutte le piazze finanziarie. Torchia, le chiedo un minutino di pazienza perché noi adesso mandiamo in onda la nostra scheda nella quale ricordiamo un po' le caratteristiche di questa offerta per poi approfondire gli aspetti più importanti insieme a lei. Ricordo che poi, una volta che Torchia ci lascerà alle 12.30, proseguiremo la nostra trasmissione con due analisti finanziari, Maria Adelaide Marchesoni, collega del Sole 24 Ore, responsabile dell'ufficio studi del Sole. Adelaide, buongiorno, ciao. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. E saluto anche Francesco Caricati, analista dell'area risparmio gestito di Consultic, una società di analisti indipendenti. Caricati, buongiorno e grazie di essere con noi. Ovviamente microfoni aperti anche agli ascoltatori, 800240024 per le domande in diretta, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, la nostra scheda. Dieci giorni per convincere grandi investitori e piccoli risparmiatori ad acquistare le azioni di Enel Green Power, che si prepara per il debutto sui mercati il prossimo 4 novembre. È partito lunedì scorso dalla sede di Borsa Italiana il roadshow di presentazione del più grande collocamento in Europa da quando la crisi ha messo sottosopra i mercati mondiali e il secondo del 2010 di Piazza Affari. Anche dall'esito della campagna vendite dipenderà il prezzo dell'azione del gruppo in cui sono confluiti gli asset nell'energia rinnovabile di Enel, ora sospeso in una forchetta tra 1,8 e 2,1 euro. Ai piccoli risparmiatori che conserveranno le azioni per almeno un anno, ricevendone così una in omaggio ogni 20, l'amministratore delegato Fulvio Conti ha assicurato un rendimento del 5-6% garantito. Senza bonus share, il titolo renderà invece poco meno del 2% per via di una politica dei dividendi che prevede per ogni euro di utile 30 centesimi a dividendo. Conti si è rivolto anche a chi ha nel cassetto titoli Enel, oltre 1,5 milioni di persone, ricordando che a tutti gli azionisti privati del gruppo è stata riservata una tranche di azioni Enel Green Power, con allocazione preferenziale in caso di domande superiori all'offerta. Allora, 800240024, il numero verde per le vostre domande. Dottor Torchi, la prima questione che volevo affrontare con lei è molto banale, però ci sono molti ascoltatori che magari con questa società non hanno mai avuto modo di confrontarsi, incontrarsi, non ne hanno mai letto nulla. Che cosa fa Enel Green Power? Ma guardi, è molto semplice. Enel Green Power è una società che è leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e in questo settore, mi faccia dire, rappresenta un unicum. Perché nessun'altra società al mondo opera con le tipicità di Enel Green Power, e cioè un mix di tecnologie diversificato, che non è solo eolico, ma anche idroelettrico, geotermico e solare fotovoltaico, o una diversificazione geografica che vede Enel Green Power presente in 16 paesi nel mondo, dalla Spagna a Portogallo all'Italia, passando attraverso alcuni paesi europei come Romania, Francia e Grecia e arrivando a Nord America, quindi Canada, Stati Uniti e Centro e Latino America. In questo contesto Enel Green Power può beneficiare quindi di una bassa esposizione ai sussidi governativi. Soltanto il 28% dei ricavi di Enel Green Power è esposta a tali rischi, ciò che la rende unica in un momento in cui evidentemente i governi tendono a ripensare le manovre di supporto e quindi sussidi. E in questo contesto vorrei chiudere anche dicendo che una delle unicità di Enel Green Power è la sua capacità di coniugare la sua crescita, quindi consegnare una pipeline che dà crescita di risultati nei prossimi 5 anni, con una cassa che fin dall'anno 1 consente di finanziare la propria crescita, ma anche di sostenere una remunerazione degli azionisti significativa. Ricordava lei come l'amministratore delegato Conti abbia indicato intanto un dividend payout, quindi una capacità di remunerare dividendi per almeno il 30%, ma poi anche la possibilità che se nel futuro la crescita, che deve essere comunque una priorità per questa azienda, non dovesse presentarsi, la cassa di Enel Green Power sarà sempre pronta per essere impiegata a remunerare i dividend payout magari maggiore. Tocca, l'abbiamo persa solo per un secondo. Quali sono i principali concorrenti europei di questa azienda, se qualcuno volesse anche operare un confronto? Peraltro qualcuna di queste è anche società già quotata, quindi magari si potrebbe fare anche un confronto rispetto ai risultati ottenuti negli anni passati. E un'altra domanda che le voglio fare, Torchia, perché proprio approfitto, cerco di ottimizzare al massimo questi pochi minuti di tempo che ho di sua disponibilità. No, andiamo subito con i concorrenti, la seconda gliela faccio dopo. Torchia? Ecco qui, niente Torchia, infatti abbiamo difficoltà con la linea telefonica perché a Parigi. Maria Adelaide, posso farla a te, sì, magari questa domanda, poi con lui vado con il secondo aspetto che volevo affrontare, che ancora mi riservo, perché il tema è che stanno già sollecitando molti ascoltatori e all'azionista Enel. Che cosa deve aspettarsi da questa quotazione? Allora, c'è una grande società spagnola, peraltro esatto. Enel Green Power si quota anche in Spagna. Esatto, sì, Madrid, Barcellona e poi Bilbao e Valencia, anche in quotazione in questi mercati. Parlavi di competitor. Allora, i competitor sono attualmente le più grandi società di energia al mondo e sono la spagnola Iberdrola Renovables, la francese EDF Energie Nouvelle, la portoghese EDP Renovables e la tedesca, scusate un po' la pronuncia, non sono proprio la tedesca c'è RWE, anche una grande società tedesca. Ok, e in più comunque ci sono altre piccole medie società che Enel Green Power si dovrà confrontare, ma questi sono i veri competitor di Enel Green Power. Approfitto di Torchia perché lo abbiamo ripescato. Dottor Torchia, allora l'altra domanda che le volevo fare: molti ascoltatori si chiedono, proprio io vado molto banalmente al collocamento della società e all'eventuale riparto, perché io insomma se non ho un'impressione sbagliata, credo che questa sia una di quelle tipiche offerte che avranno una vera e propria corsa, un vero e proprio boom di domanda. Se si dovesse andare a riparto, come è probabile che succederà, poi magari non è detto, agli azionisti Enel aspetterà qualche, come dire, possibilità in più di avere un lotto in più di azioni richieste, se se ne dovesse fare richiesta appunto di una cifra maggiore rispetto ad un lotto minimo? Allora, la risposta è sì. Gli azionisti Enel avranno diritto a una sorta di prelazione su almeno il 50% dell'ammontare globale dell'offerta retail. E quindi, come al solito, Enel vuole dare un messaggio ai propri azionisti, che sono 1.200.000 circa in Italia e che seguono la società da 10 anni, da circa dal 99, dal momento in cui cioè la nostra società Enel è andata in quotazione. Vorrei tornare un momento, mi scusi, sul tema dei nostri concorrenti, perché poi chiedo scusa, ma è caduta la linea. Noi li abbiamo già citati sulla base delle informazioni che avevamo, che sono state anche riportate da tutti i giornali. Prego. Esatto, e il tema è questo, però. Rispetto a questi concorrenti, che sono le società quotate che citava l'analista prima al telefono, io devo dire e ribadire con orgoglio che poi questi sono dei punti di riferimento da cui bisogna partire per andare a considerare il vero valore di Enel Green Power, perché, e qui ribadisco, Enel Green Power beneficia di un'unicità di mix, di diversificazione geografica e di bilanciamento fra attività sussidiate e non, ma soprattutto anche di cassa disponibile fin da oggi per remunerare crescita e dividendi, quindi per remunerare non solo la crescita ma anche i propri azionisti, che sono un unicum e che nessuna altra di queste società che sono state menzionate hanno. Faccio solo l'esempio del MIX. Tutte queste società, e dico tutte, si presentano sul mercato con sostanzialmente eolico. Noi non siamo solo eolico, sì, ma siamo anche idroelettrico, geotermico e solare. Allora tutti sapranno che idroelettrico e geotermico in particolare beneficiano di una priorità di dispacciamento e quindi si presentano come molto redditizie in ogni momento, potendo dispacciare energia elettrica in ogni ora lungo l'arco della giornata e dell'anno, godendo di una priorità di dispacciamento e di una remunerazione significativa che peraltro, e in particolare l'idroelettrico e il geotermico, non è soggetta a sussidi governativi. C'è Maria della De Marchesoni che le vuole fare una domanda, ma dovete essere una curiosità velocissima, ma il piano di investimenti, però la maggior parte, diciamo, delle risorse destinate al piano di investimenti va all'eolico. È così? È così? Cioè 3,5 su 5,2 sono sull'eolico. È vero, però bisogna anche vedere questo. È eolico che non è solo in Italia, è anche ottimo eolico in Nord America, in Romania, in Grecia, dove i fattori di carico sono molto più alti che non l'eolico in Italia. E poi mi piace ricordare che non è solo eolico. La nostra pipeline è gran parte eolica, ma anche geotermica e idroelettrica, soprattutto in Nord America e in Centro America. Allora qui voglio ricordare che il fattore di carico, cioè la capacità che ha la potenza installata di produrre energia elettrica, rimarrà per Enel Green Power comunque più elevata di tutti i concorrenti anche dopo la messa a regime, quindi la conclusione del piano di investimenti che lei citava. Quindi non è tanto il fatto che sia prevalentemente eolico, è eolico di buona qualità dal punto di vista dell'load factor e quindi della redditività, cioè della capacità di portare risultati e quindi crescita, ma anche idroelettrico e geotermico nelle aree dove noi siamo presenti. Abbiamo fatto fare una tappa di roadshow a Luca Torchia anche dal microfono di Salva Danaio. Io so che devo salutarla, le auguro naturalmente buon lavoro e poi a tutte le domande degli ascoltatori che stanno arrivando speriamo di rispondere correttamente noi. Grazie dottor Torchia e buon proseguimento del suo giro a Parigi. Grazie a voi tutti, arrivederci. Buon lavoro. Subito pubblicità che siamo in ritardissimo. È un passo ulteriore nella strategia di consolidamento e di crescita dell'Enel. Enel Green Power ha oltre 600 impianti nel mondo, in 16 paesi, con una capacità di più di 5.800 megawatt. È uno dei più grossi operatori al mondo, con un'esperienza e competenze in tutte le tecnologie del rinnovabile, che è l'energia del futuro. Un'azienda con un business in crescita che dispone di un piano di investimenti nei prossimi 5 anni per oltre 5 miliardi di euro, con l'obiettivo di portare entro il 2014 la capacità produttiva ad oltre 9.000 megawatt. Quella che faremo sarà la più grande IPO in Italia ed Europa dal 2007. Siamo pronti e daremo grandi soddisfazioni agli azionisti. E questo era Fulvio Conti, l'amministratore delegato di Enel, che con un messaggio, e non è la prima volta che lo fa, forse l'aveva fatto anche l'altra volta per l'aumento di capitale della società, Maria Adelaide, esatto, ha affidato a YouTube un messaggio filmato appunto proprio per spiegare le condizioni di questa offerta. È in corso, si concluderà a fine mese, poi esordio del titolo Enel Green Power a Piazza Affari il 4 novembre in borsa. Peraltro Maria Adelaide finirà sull'S&P MIB 40, sul FTSE MIB, sì, scusa, penso come sono rimasta indietro stamattina. No. Sul principale paniere non è ancora non dato è ancora a sapere. Dato. No, no, lo chiediamo no, no, a Caricati la capitalizzazione se lo sa, tra i 9.000 e i 10.500 milioni di euro. Di euro. Caricati, secondo lei? Ma ancora piccola come capitalizzazione. Quindi comunque. non è detto, non andrà probabilmente a finire sul principale paniere. Allora, ci sono tante cose da raccontare rispetto a questa offerta. Noi ci siamo fatte un po' raccontare la mission industriale da parte dell'investor elettor di Enel, di questa azienda, i suoi principali competitor. Adesso invece molti ascoltatori, ovviamente che sono piccoli risparmiatori, ci chiedono dettagli rispetto proprio alla così alle condizioni di questa offerta, lotti minimi e quant'altro. Direi di sentire subito un ascoltatore e poi andiamo ai nostri due ospiti. Carlo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io ho una domanda pratica, molto semplice. Cioè io sono andato in banca, da un funzionario della banca, per prenotare 10.000 azioni della Enel Green Power, no? Sì. Però mi ha detto che... Quindi voleva 5 lotti, lei, beh, Carlo. Non so quanti sono, io volevo 10.000 azioni, punto. No? Sì, un lotto da 2.000. Sì, sono andato col discorso del bonus, no? Perché mi interessava un'azione ogni 20. Però lui mi ha detto, e qui sta la domanda, che il lotto è per un massimo di 6.000 azioni. Non riconoscono di più. Cioè, in pratica, se io ne prendo 10.000... l'azione, ogni 20 mi viene riconosciuta sulle 6.000 azioni, massimo è 6.000, oh, per cui per 4.000 non mi viene riconosciuta. No, veramente voglio sapere se questo è vero o meno. Allora, io adesso sto cercando, ho sotto gli occhi il modulo per la sottoscrizione dell'offerta, dove ovviamente questi aspetti non vengono indicati. Io non so se sono delle condizioni che vengono poste dalle banche perché magari già immaginano o già hanno ricevuto una tale richiesta di prenotazioni che evidentemente fanno un tipo di riparto per loro conto, non lo so. Caricati, lei che ne pensa? Adesso io non sono sicura di poter dare una risposta corretta a Carlo, magari mi riservo di farla in un secondo momento, però insomma qual è la vostra percezione? Sul prospetto informativo è chiarita questa questione. Sì, sul prospetto invece, sì, non sul modulo di adesione. Sì. Sì, l'attribuzione gratuita dell'azione ordinaria ogni 20 è limitata a 3 lotti minimi, quindi l'assegnazione gratuita può essere, nel caso del signore, soltanto sulle 6.000 azioni, non sulle restanti 4.000. Benissimo, Caricati, la ringrazio per essere arrivato anche a questo punto del prospetto informativo, che io invece non avevo visto, per cui è una cosa ben indicata nel prospetto, per cui Carlo non deve stupirsi, non c'è nessuna decisione della banca, è una cosa che la società ha già stabilito a priori. Allora, Caricati, come analista del settore risparmio gestito di Consulti, che le chiedo, insomma, questa abbiamo già detto che è praticamente la più importante IPO europea da 4 anni a questa parte, mi risulta che sia la più grande, la più importante italiana da almeno 10 anni, e però comunque si sceglie di fare un'operazione finanziaria di questo tipo in un momento di mercato che ancora non è che sia estremamente favorevole. Come la vede? Beh, il momento non è favorevole, però c'è da dire che questa IPO va anche a favore di Enel, che ha bisogno di ridurre l'indebitamento e attraverso questa operazione vuole raggiungere l'obiettivo che è stato comunicato tempo fa al mercato di abbassare l'indebitamento netto a 45 miliardi dagli attuali più di 50, 56 se non mi sbaglio, e quindi è un primo obiettivo che viene raggiunto dalla capogruppo. E, nonostante questo, comunque c'è da dire che il momento storico, diciamo, dei mercati finanziari non è comunque dei migliori, ma si parla comunque di un collocamento di un'azienda innovativa che ha una buona diversificazione sia geografica che settoriale, che di fonti energetiche da cui attingere poi a livello anche di output, e quindi può essere, non è detto che sia un momento sbagliato per l'azienda l'attuale per quotarsi. Diciamo. Forse abbiamo detto delle imprecisioni, credo, relativamente alla capitalizzazione di borsa. Allora, questa è una società che vale circa 10 miliardi, se non sbaglio male. Il collocamento riguarda circa il 30% di capitale, quindi ai fini della capitalizzazione di borsa che cosa dobbiamo considerare, Caricati? Beh, dipende alla fine dal prezzo che farà l'azione, che farà, certo. L'azione, sì, dipende se il prezzo sarà di 1,8 euro per azione, la capitalizzazione sarà circa di 9 miliardi. Se invece andremo nella fascia alta della forchetta di prezzo, quindi intorno ai 2 euro, 2,10, la capitalizzazione sarà di 10,5 miliardi. Quindi tra 9 e 10 e mezzo, no? Un ascoltatore è che prima abbiamo detto milioni di euro invece di miliardi. 10.500 milioni di euro. Esatto, esattamente. Miliardi. Quindi Stefano da Brescia abbia pazienza, ogni tanto qualche refuso tocca pure a noi. L'altro venerdì scorso ho detto che praticamente una libra di cotone valeva 1.100 dollari e passa, per cui l'ho paragonato a loro. Ogni tanto ci capita. Allora andiamo a Riccardo da Brindisi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, volevo sapere se la società è indebitata, perché so che Enel, come già stato detto, però certo. I BP non sono nulla. No, tra l'altro, Riccardo, questa operazione è finalizzata all'abbattimento del debito di Enel, quindi in realtà, ecco, c'è anche questa stretta correlazione molto interessante sulla quale non abbiamo avuto tempo di approfondire con l'investor relator di Enel, perché ha dovuto lasciarci, ma sarebbe stato un bel argomento appunto da affrontare. Sul debito di Enel Green Power, Maria Adelaide, allora, cosa sappiamo? Sappiamo che a fine del primo semestre il 2010, quindi, il debito era sceso da 5,3 miliardi a 2,9 miliardi per un'operazione di ricapitalizzazione che era stata fatta all'inizio del 2010. La società quindi ha un debito molto contenuto, e in più, diciamo, uno dei punti di forza di questa azienda sul livello del debito che è contenuto, ma anche che è stato in gran parte, diciamo, contratto con la capogruppo a condizioni favorevoli. Quindi i tassi di interesse o comunque la capogruppo capacità di gestirsi una contrattualità di questo debito è abbastanza favorevole per la società. 800 24 00 24, potete continuare a prenotare i vostri interventi. Allora, sentirei la domanda di Gino da Como, poi vediamo se riusciamo a rispondere o andare subito in pausa per sentire suggerimenti per chi è in viaggio. Gino, buongiorno, lei si chiama come il mio papà. Buongiorno. Favorito allora nella domanda? No, sto scherzando. Nessun favoritismo. Gino, ci dica. Niente, io sono un piccolo investitore, non sono tanto pratico sulle cose di borsa, no? L'amministratore Conti ha garantito il 5,5% lordo, penso, annuo. È un rendimento, no? Sì. Lei sta parlando di rendimento del dividendo? Sì. Esatto, io volevo chiedere... Volevo chiederle, se l'azione io l'acquisto, supponiamo, a 1,85 e poi tra sei mesi l'azione vale 1,70, io appunto perdo il capitale. Sì. E questa è una regola di borsa. Sì, è una triste realtà per chiunque. Gino, quindi, però ecco, il dividendo diciamo promesso rimane quello. Il suo rendimento lo calcola. Il 5 era sul dividendo. Sì. Ho capito, cioè, perciò... Il capitale è a rischio, voglio dire, tra virgolette. Sempre. Perché la borsa ha questa regola, Gino, non è che è un problema che riguarda Enel Green Power, ma credo che, come lei ben sa, anche se è un piccolo risparmiatore molto addentro alle questioni di borsa, anche perché lo abbiamo visto ultimamente. Gino, sì, aspetti un po' lì che devo mandare suggerimenti perché in viaggio, poi le chiariamo i suoi dubbi, tra poco. Allora, non era per niente banale la domanda di Gino da Como, ma questa può riguardare, secondo me, almeno è nel Green Power, come tutte quante le società che ovviamente fanno una previsione di rendimento da riconoscere agli azionisti e poi ovviamente devono sopportare anche le oscillazioni di borsa. L'ascoltatore dice, ma insomma, se l'azione verrà quotata a 1,85 euro, oggi Conti promette in ogni caso un rendimento di circa il 6% in termini di remunerazione, quindi di cedola, ma chiaramente se l'azione mi finisce a 1,50, il rendimento si calcola su 1,50. Infatti. Però insomma questo dividendo iniziale più per chi, ovviamente l'ha presa a 1,50 l'azione. Infatti. Ecco. Caricati, però... vuole aggiungere qualcos'altro su queste osservazioni? Beh, ovviamente bisogna distinguere tra rendimento cedolare più il rendimento quello che dipende dalla plusvalenza o la minusvalenza del titolo. Può anche finire a 2,5 euro il titolo. Certo, perché la vediamo solo in negativo. Infatti, quindi insomma le prospettive sono diverse a seconda poi di come questa crisi anche evolverà. Non ci dimentichiamo che siamo oggetto tra l'altro e anzi ostaggio a volte dei mercati. Adesso c'è la guerra delle valute, ci sono tanti altri aspetti da considerare, soprattutto per un gruppo come questo che ha diversi infatti, anche all'estero geograficamente, ecco, che deve coprirsi per rischi valutari, rischi di tanti aspetti. Allora, Pietro da Lucca, buongiorno. Stiamo oggi veramente correndo dietro agli ascoltatori per cercare di raccogliere un po' le domande che possono interessare un po' tutti quanti. Pietro, buongiorno. Ciao, buongiorno Deborah. Buongiorno. Volevo sapere una cosa. Ho sentito l'ascoltatore di prima che diceva del bonus e gli è stato risposto che fino a 6.000 ci avrà il bonus e non oltre. Sì. E per quanto riguarda il lotto maggiorato, quello da 20.000? Allora, qua io pure un aspetto che mi son persa. Caricati, lei ci è arrivato su questa parte del prospetto informativo? Lotto maggiorato, diciamo che sono due i lotti maggiorati, il massimo di lotti cosa maggiorati. Cosa vuol dire intanto lotto maggiorato? Allora, il lotto minimo vengono assegnate 2.000 azioni, il lotto maggiorato invece sono 20.000 azioni assegnate. Benissimo. Quindi è una distinzione quantitativa. Sì, esatto, è nella seconda parte anche del modulo di prenotazione, sì. L'azione gratuita sarà assegnata entro un massimo di due lotti maggiorati assegnati, quindi 40.000 azioni. Benissimo, ok, speriamo di aver capito anche questo. Peraltro io ricordo che, anche se io sono stata disattenta nel leggere alcuni punti, che potete andare, ancora prima di sottoscriverlo, oltre che nella vostra banca ovviamente per poter fare la richiesta di prenotazione dei lotti minimi, potete andare anche se siete pratici con internet sul sito di Enel Green Power e scaricare il modulo da lì, così almeno vi potete già togliere delle curiosità anche ancora prima di leggere tutto il prospetto informativo e quindi insomma valutare le condizioni di massima dell'offerta. C'è anche tra l'altro la prima necessità di dichiarare di aver preso conoscenza e del prospetto informativo e in particolare del paragrafo fattori di rischio. Quali sono i fattori di rischio di questa offerta, caricati? Quelli che almeno sul quale avete messo il naso in maniera un po' più accurata voi analisti? Beh, ovviamente innanzitutto i fattori di rischio, quelli che vengono indicati nel prospetto, sono i fattori di rischio tipici dell'investimento azionario, quindi quello, tutto ciò che è relativo all'investimento in titoli di capitale, che ovviamente sono diversi da titoli di debito, e qui anche magari c'è il problema relativo all'investitore che non capisce la differenza fra rendimento del 5-6%, che è il rendimento cedolare, che può essere un po' paragonato al rendimento di un BTP, certo. E il rendimento invece che può venire da una minusvalenza o da una plusvalenza. Nello specifico invece i rischi, diciamo, di questa offerta sono relativi al business, se vogliamo, di Enel Green Power, che è un business comunque innovativo e che ha bisogno di molti investimenti, e comunque l'azienda si trova in una situazione di vantaggio, se vogliamo, rispetto ad altri competitor, in quanto ha un business molto diversificato e quindi possibilità di fare utili da più fonti, però in generale comunque l'offerta sembra, diciamo, il prezzo che poi verrà quotata l'azione sembra comunque in linea con quelle che sono le valutazioni di mercato per i concorrenti, quindi in media non ci dovrebbero essere scossoni nelle prime giornate di quotazione del titolo. Allora, c'è un ascoltatore che tra l'altro si chiede, e io mi chiedo a mia volta, che tipo di interesse possa avere un aspetto di questo tipo, però noi con tutto il rispetto ovviamente leggiamo anche questa domanda: chi saranno i prevedibili investitori istituzionali interessati e che considerazioni se ne potranno trarre? Vabbè, investitori istituzionali mediamente sono fondi di investimento, esatto, assicurazioni, banche, insomma, i grandi investitori sono chiamati in questo modo. Che considerazioni se ne potranno trarre? Beh, io credo che mediamente su un'azienda di questo tipo... No, tra l'altro spingono anche per avere una quotazione alta, mi pare di aver capito, questi investitori istituzionali, se non ho letto male, lo riportava la collega del Sole 24 Ore Laura Serafini in questi giorni. Caricati, che ne pensa? E perché spingono per avere una quotazione superiore ai 2 euro? Il massimo sarà comunque 2,10 euro. Gli investitori istituzionali comunque tenderanno ad entrare nel capitale di una società comunque dai buoni fondamentali per diversificare il loro portafoglio. Anzi, il contrario: gli investitori istituzionali spingono per abbassare il prezzo, mentre ovviamente la società lo vorrebbe al di sopra. Perché incassa più Enel. tra le due alternative, gli investitori ovviamente prediligono un prezzo più basso per pagare di meno, il Enel preferisce un prezzo più alto per riuscire ad accumulare a ridurre più il debito. Allora, io sono in attesa Filippo da Bergamo e Vincenzo dalla provincia di Lodi. Volevo far passare in avanti a Filippo Vincenzo, perché la sua considerazione mi preoccupa un po'. Allora volevo anche chiarire alcuni aspetti relativamente al fatto che noi come trasmissione trattiamo questo argomento. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono un po' perplesso su una cosa. Dunque, innanzitutto mi avete già anticipato dicendo che questa IPO, nonostante sia una delle più grandi in Europa da molti anni, abbatterà il debito, serve per abbattere il debito della controllante. Sì, cioè sì. Non va una lira di risorse, cioè i mezzi finanziari non vengono dati a Enel Green Power, ma vanno tutti in cassa a Enel, che li utilizzerà per ridurre il debito. Sì. E due, anche qui mi sono stato anticipato, siamo in un momento di mercato basso, tanto per intenderci. Cioè, la mia perplessità, diciamo che sono diversi anni che a livello dilettantistico investo in borsa, e mi ricordo quando ci fu l'IPO di Enel, non è stata così, nonostante sia stata così reclamizzata come questa, perché va sui mass media, va a livello nazionale, ne state parlando anche voi come radio, ma come abbiamo fatto per l'aumento di capitale di Enel, come abbiamo fatto anche per tante operazioni molto importanti che abbiamo già l'idea possono avere un impatto enorme tra i piccoli risparmiatori, per cui adesso noi speriamo peraltro di aver fatto un lavoro piuttosto bilanciato. Il nostro obiettivo è di far conoscere le condizioni di questa quotazione, non invitare a far niente a nessuno che non abbia ben capito la dinamica di operazioni di questo tipo, Vincenzo, per cui spero che su questo siamo molto chiari. Quindi lei dice però tutto questo battage che viene fatto in qualche maniera induce in ogni caso ad investirci, e lei ritiene che non sia un buon business? Sì, no, non la convince. Scusi se la interrompo, non è che non mi convince, però questo martellamento mediatico va anche a ridosso dei vecchi, io li chiamo bottisti, cioè di persone che non si intendono, come ho sentito anche da qualcuno sì. nelle domande che vengono fatte, intendersi minimamente di quello che magari potrebbero andarsi a fare prospettando magari guadagni, come per esempio potrebbe essere la bonus share, cioè il discorso delle 20, dell'azione gratuita ogni 20 è sempre come il discorso del dividendo, cioè non è che vengono regalati i soldi, ma il giorno dello stacco della cedola si abbasserà del valore della cedola stessa. Sì, però, sì, però lei però vabbè, cioè, lo stacco dividendo incassa le nuove azioni. Io con questo non voglio dire che deve essere fatto l'investimento, no? No, però no, c'è infatti una bilancia, no? Nel senso che vengono incassati soldi da parte dei dividendi e vengono date azioni, è chiaro che si ribilancia il prezzo sul mercato. Vincenzo, però insomma lei ci ha espresso le sue perplessità e che noi raccogliamo volentieri, magari sono le stesse che si stanno facendo sì. molti altri, ma appunto il tema è questo, che se ci sono dei dubbi su anche un'esagerazione magari di campagna di comunicazione, di informazione, questo è un gruppo che ha una potenza di fuoco enorme sia come nel Green Power che soprattutto come società, come azionista di riferimento, per cui è chiaro che bisogna anche dare il peso un po' a tutte le cose. Lei tra l'altro diceva prima, qui si induce qualcuno a fare degli investimenti sbagliati, la gente le fa anche per conto suo, magari investendo in titoli greci quando valgono e rendono l'8% e non sanno assolutamente niente di quello che stanno comprando e fanno una speculazione pura, come quando hanno comprato all'Italia pensando che la salvavano e adesso non si trovano un bel niente in mano, per cui insomma ecco, il tema è che se non si capisce quello su cui si investe è meglio sì. stare lontani. Il modello di business è chiaro, gli investimenti che farà il gruppo li ha dichiarati, è chiaro che se uno magari è stato scottato con Enel nelle fasi dei collocamenti precedenti si pone dei quesiti ulteriori certo. rispetto a però diciamo che nella stessa stregua ci sono tutte le società quotate, esattamente, le banche e tanto altro. Allora io non riesco a far intervenire né Filippo né Piero, scriveteci, giro le vostre domande al buon Caricati che è preparatissimo, non esatto. a Maria Adelaide perché no. è piena di lavoro e già mi ha detto non t'azzardare a girarmi niente, ma magari mi faccio aiutare appunto dai nostri analisti per chiarirvi gli ultimi dubbi che vi rimangono, gli ultimi, magari fossero solo gli ultimi, ce ne saranno centinaia, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare questa mattina, grazie per essere stati con noi a Francesco Caricati e Maria Adelaide Marchesoni, grazie a Filippo Aureggi. In assistenza tecnica Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Salvadanaio torna domani. Vi auguro una buona giornata.